dopo qualche anno fra me e te. Non c'è trucco e non c'è inganno fra me e te. C'è una storia tutta da scrivere. Fra me e te c'è sempre un pesce d'aprile fra me e te. Si sa come andrà a finire fra me e te. È naturale confondersi. Anche se siamo due che vanno a mille, anche se c'è qualche attrito e son scintille fra me e te, niente che sia irrimediabile. Ho un'immagine di noi che dividiamo un'insalata e per dessert ci può bastare una risata. E sai che c'è, che ho ricominciato a vivere. Vivere, vivere, vivere fino a morire dal ridere. Raccontami storie fantastiche, fammi arrivare alle lacrime. Esagera che siamo noi questa favola. Mostrami ogni tuo lato e lasciami senza fiato. Ho un'immagine di noi nell'espressione più felice d'ora che con lo specchio stiamo in pace. Ancora c'è una storia tutta da ridere. Il tempo non ci ha fatto smettere.